che verrà occupata per 3 mesi, sostenuti da circa 2.000 abitanti di Montico, impediscono la rimozione delle attrezzature della fabbrica nelle prime ore del mattino. Il 27 luglio 1974 Spinola fu costretto a promulgare la legge che sanciva il diritto dei popoli all'autodeterminazione e all'indipendenza. Il 29 luglio l'assemblea plenaria della TAP, un'azienda di servizi con circa 4.000 lavoratori, viene circondata dai militari. I lavoratori votano per il proseguimento dello sciopero. Il 28 agosto il governo introduce una legge che limita il diritto di sciopero. L'esercito occupa la TAP e minaccia di arrestare i lavoratori in sciopero. Il periodo tra settembre 1974 e il febbraio 1975 è stato caratterizzato dalla lotta contro i licenziamenti che ha portato all'occupazione generalizzata delle aziende e al rafforzamento delle commissioni di lavoratori come organi di potere paralleli a quelli dello Stato. Il 9 settembre si tenne a Lisbona una riunione con elementi dei vari partiti di destra dove si iniziarono i preparativi per una manifestazione della cosiddetta maggioranza silenziosa. Il 10 settembre vengono nazionalizzati il Banco de Portugal, il Banco de Angola e il Banco Nacional Ultramarino. Il 12 settembre circa 7.000 lavoratori della Lisnave marciano a Lisbona in una manifestazione vietata contro la legge antisciopero. Le forze militari vengono ritirate. Il 28 settembre Spinola fa appello alla cosiddetta maggioranza silenziosa per concentrare il potere nelle proprie mani e viene convocata una manifestazione dalla destra. I sindacati proclamano lo sciopero dei trasporti pubblici. La popolazione iniziò a innalzare barricate e a costituire posti di blocco nelle strade di accesso a Lisbona e i soldati in molte occasioni collaborarono rendendoli più efficaci. Il movimento delle forze armate occupò i luoghi strategici e chiese la collaborazione dei giornalisti per fare uscire edizioni straordinarie. Nelle perquisizioni delle auto fu trovata una grande quantità di armi ed esplosivi. Lo stesso Spinola fu costretto a dichiarare che la manifestazione era proibita. Il tentativo di colpo di Stato era fallito. Il 30 settembre Spinola si dimette da Presidente della Repubblica e viene sostituito da Costa Gomes e viene costituito il terzo governo provvisorio, di cui fanno parte il Partito Socialista, il Partito Comunista e il PPD, con Vasco Gonçalves come primo ministro. Una manifestazione di circa 100.000 persone a Lisbona esprime il proprio sostegno al presidente Costa Gomes. Ascoltiamo ora di Luis Silla, Basta. Uma estrela, uma alva, uma flor, um sorriso, um menino, uma nuvem, uma casa, um amigo, uma esperança. Basta, vamos reconstruir o mundo. O mundo de estrelas, aves, flor, sorrisos, meninos, nuvens, casas, amigos, esperanças. Precisamos de um mundo novo. Alegre, simples, claro, com muito sol. Il 6 dicembre si tiene la prima riunione dell'Assemblea dell'MFA. Il 13 gennaio 1975 la Commissione di coordinamento dell'MFA annuncia il suo sostegno all'Unicidade, ovvero che ogni mestiere sarà rappresentato da un sindacato e che ci sarà un'unica federazione sindacale centrale legalmente riconosciuta. Il giorno dopo si svolge una grande manifestazione sindacale a favore dell'Unicidade. la Chiesa Cattolica diramò un comunicato in favore delle libertà sindacali e contro la Federazione Sindacale Unica. Con i voti contrari del Partito Socialista e del PPD, il 20 gennaio il governo approvò il testo di legge che istituiva la Federazione Sindacale Unica. Il 2 febbraio a Beca, una manifestazione di circa 20.000 lavoratori rurali organizzata dal sindacato chiede l'esproprio dei proprietari terrieri e la collettivizzazione delle terre. Il 5 febbraio il governatore civile di Lisbona vieta le manifestazioni pubbliche dal 7 al 12 febbraio per impedire la manifestazione dei lavoratori contro la disoccupazione e contro la NATO, prevista per il 7 febbraio, che vide poi una partecipazione massiccia nonostante il divieto del governo e la condanna del Partito Comunista e dell'Intersindacale. Il 9 febbraio scioperano i lavoratori di Radio Renascenza. Continuano le occupazioni di case e terreni. Dall'inizio del 1975 vengono occupati circa 25.000 appartamenti. Le occupazioni ricevettero il sostegno della Quinta Divisione e del COPCOM. Il 7 marzo una manifestazione del PPD a Setúbal termina dopo che una contromanifestazione viene attaccata dalla polizia con un bilancio di un morto e molti feriti. La polizia locale viene sciolta dal COPCOM. L'11 marzo Spinola attua un tentativo di colpo di Stato. Il primo obiettivo è la caserma RAL 1. Una delle sedi principali del COPCON, alla periferia di Lisbona, che viene prima bombardata e poi attaccata da paracadutisti. I militari del RAL 1 contrattaccano, mentre le altre sedi del COPCON si mobilitano. La Intersindacal Nacional chiamò alla mobilitazione popolare e organizzò picchetti di lavoratori di fronte ad alcune banche e alle radio di Stato portoghese. Molte persone, tra cui molti operai, si precipitarono verso la caserma attaccata, dove ricevettero armi ed accerchiarono i paracadutisti che deposero le armi e i soldati e i sergenti della base aerea da cui erano partiti i voli per l'attacco si ammutinarono e arrestarono un generale. Nella notte tra l'11 e il 12 marzo l'assemblea dell'MFA espelle gli ufficiali spinolisti coinvolti nel colpo di Stato e rafforza i propri poteri. A Marigna Grande i delegati di tre fabbriche presentano una mozione per la creazione di un consiglio operaio rivoluzionario. Spinola e i suoi complici scapparono in Spagna. Dalle inchieste successive risultò che il golpe era appoggiato e finanziato da ricche famiglie di industriali e dal Partito della Democrazia Cristiana. Il fallito colpo di Stato provocò un'altra ondata di occupazioni di aziende e case abbandonate. Inoltre, la maggior parte dei gruppi di estrema sinistra occuparono edifici e li trasformarono nelle proprie sedi. Il 12 marzo Radio Renascenza torna a trasmettere sotto il controllo dei lavoratori. Il 14 marzo viene costituito il Consiglio della Rivoluzione, in cui prevale la componente più progressista del movimento delle forze armate e come prima decisione decide di nazionalizzare tutte le banche e le assicurazioni. Vengono contemporaneamente soppresse la Giunta di Salvezza Nazionale e il Consiglio di Stato. Il bollettino dell'MFA scrive: si avvia la sostituzione di un'economia capitalistica di tipo monopolista con un capitalismo di Stato. Il 26 marzo entra in carica il quarto governo provvisorio, ancora con Vasco Gonçalves come primo ministro, a cui partecipano socialisti, comunisti, PPD, MDP-CDE e MES. L'11 aprile viene sottoscritto il patto MFA-partiti e viene decisa la nazionalizzazione di 14 imprese di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica e di 4 imprese petrolifere, e viene assunto l'impegno di nazionalizzare a breve le miniere, la petrolchimica, la cellulosa, i cantieri navali, la metalmeccanica pesante e di dare inizio alla riforma agraria per l'esproprio dei latifondi. Il 14 aprile vengono legalizzati gli alloggi occupati. Il 19 aprile si svolge la prima conferenza del CRTSM, i consigli rivoluzionari degli operai e dei soldati e dei marinai, che si pongono come alternativa alle elezioni e ai partiti politici e chiedono il boicottaggio delle prossime elezioni. Il 25 aprile si tengono le prime elezioni per eleggere l'Assemblea Costituente. Il Partito Socialista ottiene il 38% dei voti, il Partito Popolare Democratico il 26% e il Partito Comunista il 13%. I partiti di estrema sinistra raccolgono complessivamente il 5%. Al contrario di quanto avvenuto un anno prima, le manifestazioni del 1 maggio registrarono incidenti a Lisbona fra comunisti e socialisti. Il Consiglio della Rivoluzione cercò di mediare, emettendo poi un documento finale in cui si attribuì ai dirigenti socialisti un comportamento divisivo e ostile. Il 10 maggio inizia lo sciopero di 3 giorni di 50.000 lavoratori di alberghi e ristoranti per costringere i datori di lavoro a rispettare le tabelle salariali negoziate nel contratto collettivo. Lo sciopero dei lavoratori del settore chimico, guidato dal Partito Socialista e dall'MRPP, viene dichiarato illegale dal Ministero del Lavoro. Il 17 maggio a Lisbona si svolge una manifestazione per respingere il decreto che condanna l'occupazione di case, consentendo l'espulsione dei residenti e l'incarcerazione dei futuri occupanti. Il 19 maggio il Comitato dei Lavoratori occupa il giornale Repubblica ed esautora il direttore Raul Rego, accusato di aver trasformato il quotidiano in un organo del Partito Socialista. Il 20 maggio il giornale sarà sgomberato dai militari. Il 27 maggio viene occupata Radio Renascenza da parte dei lavoratori in contrasto con la direzione. Radio Renascenza abbandonò quindi la dicitura di emittente cattolica e i religiosi si ritirarono dal servizio radiofonico. I lavoratori iniziarono a dirigere la radio con l'appoggio di organizzazioni politiche e sindacali, ribattezzando la Radio Renascenza al servizio dei lavoratori. Il 13 giugno vengono nazionalizzati i trasporti ferroviari e stradali. Nella data prevista per la riapertura del giornale Repubblica, il 16 giugno, il COPCON non riuscì a giungere a un accordo con la direzione del giornale, per cui la sede fu riaperta senza la loro presenza. Il 18 giugno si tiene una manifestazione contro la decisione di restituire Radio Renascenza alla Chiesa Cattolica. Lo stesso giorno ci sono scontri davanti al Patriarcato di Lisbona tra manifestanti a favore dei lavoratori di Radio Renascenza e quelli in difesa dell'Episcopato. Il Consiglio della Rivoluzione annullò la decisione governativa di restituire Radio Renascenza alla Chiesa. Il Consiglio della Rivoluzione il 21 giugno approvò il piano di azione politica, una soluzione di compromesso tra le diverse tendenze presenti nell'MFA. Il documento poneva come obiettivo la creazione di una società socialista senza classi realizzata tramite la collettivizzazione dei mezzi di produzione da raggiungere tramite la via pluralista ed elettorale con la partecipazione dei partiti politici. Il 25 giugno viene proclamata l'indipendenza del Mozambico. Ascoltiamo quindi Viva Viva a Frelimo. Viva Viva a Frelimo, guia teu povo moçambicano, povo herói que o carmo empunho, o colonialismo derrubou. Todo o povo unido, luta contra o imperialismo, continua e sempre vencerá. Viva Moçambique, viva Moçambique, viva a bandeira, símbolo nacional. Viva Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Do capitalismo e exploração. O povo moçambicano, de operários e de camponeses, Moçambique, viva Moçambique, que por ti o povo lutará. Il 30 giugno, 89 ex agenti della PIDE fuggono dal carcere di Alcoentre. 17 vengono ricatturati nelle prime ore dalla popolazione e dal COPCOM. Il 5 luglio viene proclamata l'indipendenza di Capo Verde. Il 12 luglio viene proclamata anche l'indipendenza di Sao Tomé e Principe. Durante i mesi di luglio e agosto vengono occupati diversi giornali e stazioni radio da parte dei movimenti di estrema sinistra. Continuano anche le occupazioni di terre, si verificano attacchi contro le sedi dei partiti della sinistra da parte dell'estrema destra. Solo in questo mese furono 86 le azioni di questo tipo. Nell'estate del 1975 operarono anche due organizzazioni di estrema destra, l'Esercito di Liberazione del Portogallo e il Movimento Democratico di Liberazione del Portogallo, che radunavano ex membri della PIDE, militari sostenitori di Spinola e impresari esiliati in Spagna che avevano l'appoggio e la protezione della polizia e dei servizi segreti spagnoli e che realizzarono azioni terroristiche. Furono stabilite alleanze fra le milizie cattoliche e queste organizzazioni. Erano infatti noti i contatti fra quelle organizzazioni e alcuni membri della Chiesa, come il Vescovo di Braga e il canonico Melo. Il 10 luglio esce il primo numero di Repubblica sotto il controllo dei lavoratori. Il Partito Socialista si ritira dalla coalizione di governo. Il 16 luglio carri armati e soldati sostengono una manifestazione a Lisbona indetta dalla Federazione dei Comitati di Quartiere delle Baraccopoli. Si dimette il quarto governo provvisorio. Fra il 18 e il 20 luglio si hanno manifestazioni con scontri a Lisbona che contrappongono socialisti e comunisti. Il 25 luglio Costa Gomes afferma che la rivoluzione sta avvenendo a un ritmo troppo veloce. Il 7 agosto viene pubblicato il cosiddetto documento dei nove, da parte di nove membri del Consiglio della Rivoluzione, che vengono espulsi dal Consiglio stesso e che prospettava la fine della rivoluzione e l'instaurazione di un sistema a democrazia rappresentativa. Semplificando, all'interno dell'MFA erano presenti in quel momento tre grandi tendenze: la sinistra radicale di Otello De Carvalho, appoggiata dall'estrema sinistra, i Gonsalvistas, allineati con il PCP e il Gruppo dei Nove, guidato da Melo Antunes e vicini al Partito Socialista. L'8 agosto entra in carica il quinto governo provvisorio, presieduto da Vasco Gonçalves e sostenuto solo dal Partito Comunista e dall'MDP. Il 10 agosto Melo Antunes e i suoi sostenitori si ritirano dal Consiglio della Rivoluzione. Una manifestazione a Braga a sostegno della Chiesa Cattolica si conclude con l'assalto alle sedi del Partito Comunista, dell'MDP-CDE e dei sindacati. Il 13 agosto viene pubblicato dal COPCON un documento dal titolo Autocritica rivoluzionaria del COPCON e proposta di lavoro per un programma politico, che attacca il governo e chiede il rafforzamento degli organi del potere popolare. Il 15 agosto il Partito Socialista organizza una manifestazione di fronte al Palazzo Presidenziale chiedendo le dimissioni del governo, lo smantellamento della Quinta Divisione e la reintegrazione dei nove nel Consiglio della Rivoluzione. Il Financial Times uscì con un titolo che annunciava la morte del capitalismo in Portogallo. Il 20 agosto si tiene una grande manifestazione di oltre 100.000 operai, soldati e marinai a sostegno del documento del COPCON a Lisbona, che chiede l'immediato scioglimento dell'Assemblea Costituente per essere sostituita dagli organi del potere popolare. Il 25 agosto il Partito Comunista forma un'alleanza con i gruppi di sinistra, il FUP, Fronte Popolare Unito. Il 27 agosto si svolge un'altra imponente manifestazione a Lisbona, a cui partecipano circa 130.000 persone, a sostegno delle richieste del FUP. Migliaia di persone partecipano a Oporto a una manifestazione del Partito Socialista contro Vasco Gonçalves e il governo. La quinta divisione è il Partito Comunista. Il presidente della Repubblica Costa Gomes prese a pretesto la creazione del FUP per accusare la quinta divisione di essere stata coinvolta e ordinarne la chiusura. Le forze del COPCOM occupano la sede di Lisbona della quinta divisione. Il 28 agosto il PCP lascia il FUP, che si trasforma in FUR, Fronte Rivoluzionario Unito. Vasco Gonçalves si dimette da primo ministro. Il 31 agosto il Sudafrica invade l'Angola meridionale. Il 5 settembre vengono sconfitte le componenti di sinistra dei militari nell'assemblea del movimento delle forze armate. Il 18 settembre viene convocata una manifestazione unitaria organizzata dal Comitato degli Operai e degli abitanti della cintura industriale di Lisbona in difesa delle nazionalizzazioni e della riforma agraria e dell'avanzamento della rivoluzione. Il 19 settembre fu varato il sesto governo provvisorio, in cui i socialisti avevano 4 ministri, il PPD 2 e i comunisti 1. Nel settembre-ottobre del 1975 il movimento di occupazione delle terre ebbe un nuovo impulso. Le unità collettive di produzione e le cooperative di produzione, al pari dei comitati di abitanti e di lavoratori, costituirono esperienze uniche di mobilitazione e partecipazione popolare. Queste forme di organizzazione gestivano i terreni, il bestiame, i macchinari, le attrezzature e i fabbricati che erano stati loro assegnati dal movimento di occupazione. L'area di terre gestita dai lavoratori rappresentava il 40% della superficie coltivata delle campagne del sud. Il 21 settembre si tiene il primo comizio del movimento SUV, Soldati Uniti Vinceranno. Le Monde li descrisse come un movimento di opposizione clandestino negli acquartieramenti del nord. Si presentavano come un'alternativa al movimento delle forze armate, dal quale ormai non si sentivano più rappresentati. Il 25 settembre si svolge una manifestazione a Lisbona dei SUV con la partecipazione del Fronte Unito Rivoluzionario. Temendo una escalation, il primo ministro Pinheiro de Azevedo ordinò l'occupazione della radio e della televisione. Questa prova di forza determinò la reazione di alcuni gruppi di sinistra che organizzarono un'enorme manifestazione davanti al Ministero della Comunicazione Sociale e richiesero l'intervento di Otello de Carvalho, che si rifiutò però di seguire i manifestanti fino a Belém per assumere il potere. Il 26 settembre il Consiglio della Rivoluzione crea l'AMI, il raggruppamento di intervento militare che dovrebbe sostituire il COPCOM. Il 27 settembre i manifestanti di estrema sinistra assaltano le sedi diplomatiche della Spagna a Lisbona e la incendiano. Il 29 settembre stazioni radio e televisive vengono occupate dai militari. Il COPCOM dichiarò lo stato di allerta in seguito a nuovi attentati dinamitardi. Il 4 ottobre si tiene la prima assemblea plenaria degli occupanti delle case popolari di Lisbona, organizzata dal segretariato dei comitati rivoluzionari autonomi dei residenti e degli occupanti. Il 7 ottobre viene occupata a Oporto la base militare RASP per protestare contro l'epurazione di soldati e ufficiali di sinistra. Sciopero generale di circa 250.000 lavoratori metallurgici in tutto il paese. Il 23 ottobre si tiene un grande raduno in Piazza Rossio a Lisbona di operai, soldati e marinai, sostenuti da centinaia di comitati di lavoratori e residenti e da altre organizzazioni di potere popolare della capitale, che manifestano in favore delle assemblee popolari. Nell'autunno 1975 il sesto governo provvisorio annunciò l'intenzione di procedere allo sgombero degli immobili occupati. La risposta dei comitati degli abitanti fu l'alleanza con altri settori rivoluzionari come i Soldati Uniti Vinceranno. A Lisbona, nel novembre 1975, erano presenti 21 comitati di abitanti e 38 comitati di occupanti. Il 7 novembre vengono fatti saltare da un'unità di paracadutisti gli impianti di Radio Renascenza, ancora in mano ai lavoratori, per ordine del Presidente della Repubblica, del Primo Ministro e del Consiglio della Rivoluzione. Il 9 novembre 2000 paracadutisti ripudiano la dinamite usata a Radio Renascenza e chiedono di essere messi sotto il comando del COPCOM. L'11 novembre viene proclamata l'indipendenza dell'Angola. Il 12 novembre i lavoratori edili in sciopero circondano il Palazzo de São Bento, sequestrando per 36 ore i deputati dell'Assemblea Costituente. Il COPCOM si rifiuta di reprimerli. Il 14 novembre, Partito Socialista, PPD e CDS organizzano una manifestazione di sostegno al sesto governo provvisorio, culminata con la distruzione della sede della Unione dei Sindacati. Il 16 novembre si tiene un'enorme manifestazione di almeno 200.000 persone a Lisbona contro il governo organizzata dai comitati operai della cintura industriale di Lisbona con la partecipazione dei lavoratori agricoli dell'Alentejo. Il 18 novembre nella caserma di Tancos protestarono per essere stati coinvolti nella distruzione di Radio Renascenza. 123 ufficiali abbandonano la base contro i soldati di livello inferiore che protestavano. Otello De Carvalho si affrettò a esprimere il suo appoggio ai soldati e sottufficiali di Tancos. Il giorno successivo la base venne occupata da forze fedeli allo Stato Maggiore dell'Aviazione. Il 20 novembre il sesto governo provvisorio, in accordo con il Gruppo dei Nove e il Partito Socialista, entra in sciopero, chiedendo che le forze armate garantiscano la sua capacità di funzionamento e le dimissioni di Otello De Carvalho e del capo di Stato Maggiore dell'Esercito Fabiao. A Lisbona si tiene una manifestazione contro il governo, organizzata dai comitati della cintura industriale e sostenuta da Intersindacale, Partito Comunista e FUR. Il Consiglio della Rivoluzione emana un comunicato in cui attribuisce a Vasco Lorenzo il comando della regione militare di Lisbona in sostituzione di Otello De Carvalho, che però rimane al comando del COPCON e decreta lo scioglimento dell'AMI. Il 21 novembre, nel reggimento di artiglieria di Lisbona, il giuramento di fedeltà alla bandiera delle reclute viene fatto con il pugno chiuso, impegnandosi a stare sempre, sempre, a fianco del popolo al servizio della classe operaia, dei contadini e del popolo lavoratore. Il 25 novembre reparti di paracadutisti legati all'estrema sinistra occupano quattro basi dell'aviazione, mentre il reggimento di artiglieria di Lisbona e altre unità prendono possesso di vari punti strategici intorno a Lisbona, chiedendo la rimozione del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica. Il Presidente della Repubblica, Costa Gomes, coordina una risposta militare condotta da Ramaglio e Anes e assume il controllo della situazione. Viene proclamato lo stato d'assedio nella regione militare di Lisbona e furono arrestati i militari insorti che avevano occupato la base di Monsanto. Poco dopo mezzanotte il Partito Comunista prende le distanze dai ribelli. A notte fonda i commandos aprono il fuoco sulla folla che si era radunata davanti al palazzo presidenziale di Belém. Poi i commandos attaccano la polizia militare. Nello scontro ci furono diversi morti. Iniziò così la fine della rivoluzione portoghese. Il 27 novembre il Consiglio della Rivoluzione sciolse il COPCOM. La resa della polizia militare si verificò nella mattina dello stesso giorno. L'attacco del comando provocò tre morti. Nonostante l'arresto del loro comandante, in seconda il Ralis manteneva ancora le sue posizioni difensive. Il 28 novembre il generale Otello De Carvalho viene destituito dalle sue cariche. Il generale Antonio Ramaglio e Anes viene nominato nuovo capo dell'esercito. Il governo, che ha ripreso le sue funzioni, si impadronisce dei giornali e delle stazioni radio di Lisbona e promette di restituire ai proprietari terrieri le terre espropriate. È ampiamente comprovata l'esistenza di un vasto piano militare che metteva insieme i moderati, il Gruppo dei Nove e i socialisti con l'eventuale appoggio della Gran Bretagna. Il Partito Socialista risultò essere il grande vincitore dei fatti del 25 novembre. Assumerà infatti il ruolo di forza governativa e quello di principale responsabile dello smantellamento della riforma agraria e della devoluzione delle terre, così come delle imprese nazionalizzate alla borghesia che era fuggita dal paese. Radio Renascenza venne restituita alla Chiesa Cattolica. Ramaglio e Anes eliminò tutti gli organismi di base e di mobilitazione creati nelle unità dell'esercito. Nella città di Oporto, il 1 di gennaio 1976, la commissione di aiuto ai familiari dei detenuti e vari comitati di abitanti della città organizzarono una manifestazione di solidarietà per le persone incarcerate, a seguito dei fatti del 25 novembre, che sfociò in uno scontro con i militari, la polizia e la Guardia Nazionale. Ci furono 3 morti e 6 feriti. Il 26 febbraio 1976 viene sottoscritta la nuova piattaforma di accordo costituzionale. Il Presidente della Repubblica vide i propri poteri aumentati a scapito del Consiglio della Rivoluzione. Il 2 aprile viene promulgata la nuova Costituzione portoghese. All'articolo 1 si affermava che il Portogallo era una repubblica sovrana fondata sulla dignità della persona umana e sulla volontà popolare e impegnata nella sua trasformazione in una società senza classi. L'articolo 2 specificava che la Repubblica Portoghese è uno Stato democratico basato sulla sovranità, sul rispetto e sulla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali e sul pluralismo di espressione e organizzazione politica democratica, che ha come obiettivo assicurare la transizione verso il socialismo mediante la creazione delle condizioni per l'esercizio democratico del potere da parte delle classi lavoratrici. Ma la nuova Costituzione era di fatto un compromesso tra chi sosteneva un modello di democrazia liberale e coloro che propendevano per un'opzione di socialismo democratico. Nelle riforme costituzionali del 1982 e del 1989 furono eliminati quasi tutti i riferimenti al socialismo. Il 25 aprile 1976 si svolgono le prime elezioni parlamentari. I socialisti ottengono il maggior numero di voti con il 35%, il PPD il 24%, il CDS il 16% e il Partito Comunista il 14%. Ramaglio e Anes verrà eletto Presidente della Repubblica il 27 giugno con il 61,6% dei voti, mentre Otello De Carvalho ottenne solo il 16,5%. Negli anni Ottanta si costituirono in Portogallo le Forze Popolari 25 aprile, che realizzarono azioni armate nel corso degli anni 80 e 90. Una grossa parte dei suoi militanti furono arrestati a metà degli anni 80 e condannati a pene pesanti. Negli anni 90 poi verranno posti in libertà grazie ad un'amnistia. Fra i membri di questa formazione vi erano ex dirigenti del PPBR, marxisti e militari come Otello De Carvalho. Ed ora ascoltiamoci A Cantica è un'arma, del gruppo De Acai Cultural. A Cantica è un'arma. A quem canta por interesse, a quem canta por cantar, a quem faça profissão de combater a cantar, e a quem canta de pantufas para não perder o lugar. A cantiga é uma arma. Yeah. Un fadoncio scioredigno da tavernas e salões, semeia só desalento, misticismo e ilusões. Canto mole em letra dura, nunca fez revoluções. A cantiga é uma arma. Contra quem? Contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Se tu cantas a reboque, não vale a pena cantar. Se vais à frente demais, bem te podes engasgar. A cantiga só é arma quando a luta acompanhar. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma arma de pontaria. Uma arma eficiente, fabricada com cuidado, deve ter um mecanismo bem perfeito e aliado. E o canto como arma deve ser bem fabricado. A cantiga é uma arma. Conta quem, camaradas? Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva. A cantiga é uma arma de pontaria. A cantiga é uma arma contra a burguesia. Tudo depende da bala e da pontaria. Tudo depende da raiva e da alegria. A cantiga é uma Come abbiamo visto, dopo il 25 aprile 1974 e fino al 28 novembre 1975, la rivoluzione dei garofani portoghese, oltre a sconfiggere la dittatura e a porre termine alla guerra coloniale, oscillò fra una rivoluzione popolare socialista e l'instaurazione di una tradizionale democrazia parlamentare occidentale. In molte situazioni prevalse la rivoluzione sociale, ma alla fine prese il sopravvento il modello di Stato tipico dell'Occidente capitalistico. Per chi volesse approfondire ci sono diversi libri. Di Maria Ignazia Resola, La rivoluzione dei garofani in Portogallo, 25 aprile 1974. Di Maria Carrillo, Portogallo, la via militare. Di Giorgio Del Marchi, Dal dossier sul Portogallo alla rivoluzione dei garofani. Di Sandro Moiso e Giulia Strippoli, Riti di passaggio. Consigliamo inoltre la visione del film Alla rivoluzione con la Due Cavalli del regista Maurizio Sciatta, visibile su YouTube. Concludiamo questa terza e ultima parte dedicata alla rivoluzione dei garofani in Portogallo, di gioia e rivoluzione ma anche sconfitte. Alla prossima!